Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buongiorno a voi, benvenuti, accomodatevi nella nostra casa che non è un albergo, ma dove si sta meglio ancora che in un albergo, e accomodato vicino a me, un po' spaparanzato, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Sto sistemando il mio zainetto, il mio zaino che ho sempre sulle spalle, perché oggi ritorno a scuola insieme a te, insieme a tutti i nostri ospiti. Comodo, torni a scuola quando le scuole sono chiuse. È vero, oggi è un giorno di festa, infatti invitiamo tutti gli studenti all'ascolto a rimanere con noi, perché ci sarà da divertirsi, non c'è da studiare oggi. D'altra parte, se no tu non saresti tornato, perché ormai ti sei abituato a stare dall'altra parte della cattedra, e quindi anche all'università, Alberto, tu sei ormai sei tra i professori. Effettivamente, Alberto, la scuola è stata la grande protagonista di molte trasmissioni ed è tornata anche sulle prime pagine di tutti i giornali. Oggi però, come anticipavi tu, non ci interessa tanto la scuola, in cui non vedremo quanto si studia a scuola, non studieremo, ma ci interessa indagare la scuola proprio come luogo di convivenza. Insomma, come stanno i ragazzi a scuola? È un tema che, oltre all'attualità, ci è stato ispirato da alcuni elementi. Uno, secondo me, molto interessante: il grande successo che sta avendo nelle sale cinematografiche italiane il film La classe, un film davvero interessante, dove quasi appare in modo contrastante la differenza tra il linguaggio un po' statico, molto fermo, un po' accademico dei professori, e invece un linguaggio molto fluido, dinamico, quasi rap degli studenti che in questo momento abitano le classi. Direi però che, Alberto, in realtà questa puntata ci è stata anche suggerita, come capita, e per fortuna continuate a suggerirci i temi, da un nostro ascoltatore. Sentiamo la sua lettera. Studenti in piazza, studenti sui giornali, studenti nelle città che bloccano il traffico. Di quelli che stanno fuori dalla scuola in questi giorni a protestare, sappiamo tanto. A volte, come padre, penso anche che sappiamo troppo. Mio figlio va bene a scuola, ma con noi genitori non dice nulla. I colloqui con gli insegnanti sono molto formali. Per questo motivo mi colpiscono molto le scene che vedo sui media in questo periodo relative al mondo della scuola. Mi parlano di un ambiente e di persone di cui io dovrei essere molto esperto, essendo padre di un adolescente. Invece non ne so nulla. Chi sono gli studenti oggi? Come vivono il loro impegno scolastico? Come costruiscono il loro futuro insieme ai propri docenti? Come si aiutano tra di loro? Sapete raccontarcelo voi con la vostra bella trasmissione? Potete infiltrarvi in qualche scuola e darci un'immagine che per noi madri e padri è alquanto sfocata. Bene, noi un inviato speciale, o meglio ancora un infiltrato speciale, ce l'abbiamo per fare un viaggio proprio dentro al mondo della scuola e nella scuola di tutta Italia. Ai nostri microfoni Andrea Baiani, che ha da poco pubblicato con Einaudi il libro Domani niente scuola. Andrea, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti, dopo aver letto il tuo libro, che ci ha divertito, appassionato, anche direi in alcuni tratti commosso, abbiamo proprio deciso di farti diventare il nostro esperto, il nostro infiltrato speciale. Tra l'altro, del tuo libro si è parlato molto in queste settimane, sei stato anche molto fotografato, Andrea. Senti, fin troppo. Allora, chiudiamo con le immagini e andiamo nel contenuto. Come ti è venuta questa idea e perché hai trovato proprio il bisogno, la necessità di raccontare da dentro la scuola? Ma sai, mi ha colpito molto la lettera che ho sentito del vostro ascoltatore, perché più o meno, insomma, alla fine l'ascoltatore diceva, ma insomma, noi di questi ragazzi non sappiamo niente, bisognerebbe andarci in mezzo in qualche modo, diceva, bisognerebbe proprio infiltrarsi. Ed era proprio di fatto il punto da cui sono partito io, cioè io continuavo a vedere questa generazione di adolescenti, chiamiamoli come vogliamo, insomma, di ragazzi tra i 15 e i 19 anni, sempre rappresentati come una massa informe che si divideva tra bulli e cubiste, come se i maschi fossero soltanto bulli, le ragazze soltanto cubiste, come se fossero una strana massa di decerebrati, no? Sì. E invece a me sembrava che questa rappresentazione fosse povera, e poi alla fine denotasse un po' una mancanza di fiducia nell'Italia. Allora mi sono detto, io sai cosa faccio da scrittore, cosa fa uno scrittore? Racconta delle storie. Allora proviamo a raccontare le storie di quelli che la vivono la scuola. Così sono andato e ho bussato a 3 licei, uno a Torino, uno a Firenze e uno a Palermo, e ho detto, mi infiltro, prendetemi a bordo delle vostre vite scolastiche. Senti, e ti hanno accolto, direi molto bene. Sei stato convincente, simpatico, e hai saputo tenere il passo. Ma sai, mi hanno accolto, diciamo, all'inizio con un po' di incredulità, soprattutto. Cosa vuole questo qui? Ma sai, gli insegnanti e presidi, come dire, mi guardavano, come dire, ma chi glielo fa fare? Ma come mai vuoi farti questo? I ragazzi invece, in realtà, dopo un iniziale, non dico perplessità, ma dopo un iniziale tentativo di annusarmi, di capire quale fosse la mia parte, invece si sono lasciati molto, molto avvicinare, anche perché io ho condiviso del tutto questo progetto, ho detto, io voglio stare in mezzo a voi, vorrei che tra di noi si istituisse un patto di fiducia totale, ci diciamo quello che siamo. E appunto, e loro si sono fatti molto stimolare e mi hanno sfiancato, ovviamente. Allora, Andrea, effettivamente nel tuo libro più e più volte poi tu lasci intuire a noi lettori chi mai me l'ha fatto fare. Chissà se dirai la stessa frase alla fine di questa trasmissione, perché la tua gita radiofonica non è così facile. Ti abbiamo messo nel parterre proprio due esaminatori che costruiranno con te la fotografia di cosa significa essere studente oggi a scuola. Abbiamo due studenti che arrivano da Bergamo. Io dico solo i loro nomi, poi loro si presentano meglio. Francesco e Annalisa. Ciao Francesco, chi sei, quanti anni hai e raccontaci un po' di te. Ciao, sono Francesco, ho 17 anni e rappresento un po' gli studenti all'interno della consulta provinciale studentesca, o perlomeno cerco di farlo. E che scuola frequenti? Faccio il liceo linguistico Falcone a Bergamo. Annalisa invece? Ciao, sono Annalisa, sono del liceo linguistico di Treviglio invece, ho 18 anni, faccio l'ultimo anno e spero che sia davvero l'ultimo. Lo sarà. Lo speriamo, faccio anch'io parte della consulta provinciale degli studenti di Bergamo e anch'io ho questo compito di un po' di rappresentare un po' la mia scuola all'interno del contesto della provincia. Allora chiediamo ad Annalisa, a che cosa serve una consulta provinciale studentesca? È una bella domanda, la consulta serve a tante cose, soprattutto a far crescere un po' gli studenti che sono all'interno delle varie scuole, perché permette a due rappresentanti per ogni istituto di conoscere una realtà diversa, cioè quella delle altre scuole, della scuola di provincia, perché ad esempio io che mi trovo in una cittadella lontana dal centro, ho avuto l'opportunità di conoscere la realtà delle altre scuole. È un cammino un po' di crescita, si lavora insieme, ci si trova almeno una volta al mese per riflettere su varie tematiche e si cerca di costruire qualcosa di concreto per tutte le scuole, che possono essere dei tornei sportivi, possono essere delle mostre, dei concorsi letterari, concorsi musicali, un po' di tutto, dipende un po' dalla fantasia dei rappresentanti. Questa casa non è un albergo. Come si vive oggi a scuola? Una domanda che ci ha fatto un nostro papà, ma che ci facciamo anche noi oggi nel corso di questa trasmissione. Sentiremo il racconto dalla viva voce di due studenti, Francesco e Annalisa, fanno parte di questa consulta provinciale studentesca di Bergamo, e abbiamo anche in linea con noi il nostro infiltrato speciale Andrea Baiani. Starei ancora un attimo su questa consulta che Annalisa ci ha descritto, no? Le funzioni, è un momento di aggregazione, di intervento, i ragazzi crescono anche partecipando. Francesco, a te che cosa ha dato? La consulta, vabbè, io sono entrato abbastanza giovane perché sono entrato in terza, sì. Però mi ha aiutato molto a entrare nel contesto scolastico della provincia, perché comunque ti aiuta a metterti in rete con tutti gli altri studenti della provincia e quindi a capire un po' i vari contesti scolastici che ci sono, perché non sono tutti uguali al mio, e quindi sono riuscito a confrontarmi. Ed è anche un bel mezzo per, diciamo, imparare, perché è una comunque bella palestra in cui si trovano tanti attrezzi con cui lavorare. Sì, sì, perché comunque la consulta promuove molte iniziative culturali per gli studenti e quindi noi ci troviamo in prima persona a organizzarli e poi a parteciparvi, quindi è molto utile per noi. Andrea, sicuramente tu che hai trovato anche il modo, il linguaggio per guadagnarti la fiducia e anche l'interesse dei ragazzi, sicuramente avrai qualche curiosità, una domanda per Annalisa o Francesco. Sì, mi interessava moltissimo quello che dicevano Francesca e Annalisa, che appunto rispecchiava un po' anche quello che mi avevano raccontato i ragazzi delle consulte di Torino. Io trovo che sia una cosa molto interessante, non tanto o non soltanto per il fatto che si conoscono, grazie alla consulta uno può conoscere le attività delle altre scuole, di altre realtà, ma proprio il fatto che attraverso un organismo come la consulta si possano fare delle cose insieme, cioè che ci sia proprio la possibilità politica di costruire, di mettersi in rete, di mettere tante persone insieme a lavorare su una cosa, che può essere una cosa culturale piuttosto che una cosa politica. A me piace molto l'idea che si converga sul fare, che tante persone condividano un progetto e si mettano lì insieme per farlo, indipendentemente dalla provenienza strettamente scolastica. Credo che sia un bel segno in questo momento. Allora Andrea, adesso siamo entrati nella consulta, proviamo a entrare anche dentro al tuo libro. Nella parte che ci resta della trasmissione stimoleremo alcuni temi di dibattito e di discussione. Diventeremo una sorta di piccolo consiglio di classe, anzi consiglio di scuola tutti insieme, usando qualche sollecitazione che proviene dal tuo libro Domani Niente Scuola. Il primo è un estratto molto divertente, sono alcune delle domande che i ragazzi in gita con te ti hanno fatto e ti hanno chiesto di mettere o di non mettere nel libro. Le ascoltiamo insieme e poi le commentiamo. Alcune esemplificative domande e richieste che mi sono state rivolte nel corso delle tre gite da studenti e professori. Nel libro mi fai un po' più magro? Ti giuro che prima non ero così. Quando esce il libro avrò gli addominali a tartaruga. Puoi non scrivere che fumo, dato che i miei non lo sanno. Tanto tu non parlerai di noi professori, vero? Però lo scrivi, vero, che la professoressa ha fatto l'isterica? Secondo me devi scrivere che, a differenza di me, gli altri docenti se ne fregano degli studenti. Ho un'idea. Scrivi che la professoressa si è innamorata dell'autista. Scrivi che non solo non mi faccio le canne, ma che mi fanno schifo. Scritto? Beh, ne sono arrivate un po' di tutti i colori, Andrea. Richieste, sì. Sì, erano abbastanza buffe, appunto, perché c'era questa idea che appunto io ero lì e registravo tutto quello che succedeva, e poi c'era anche questa impressione molto buffa che io potessi modificare la realtà, quindi le cose che io vedevo non necessariamente dovevo riportarle, e la verità poi era quella scritta sul libro, per cui se un ragazzo veniva da me fumando e mi diceva «Oh, mi raccomando, nel libro non scriverlo, è che fumo», poi la verità diventava che lui non aveva mai fumato. Era la possibilità di fare un restyling oppure addirittura una plastica come quello che chiedeva di essere descritto come magro. Sì, ma con gli addominali a tartaruga. Esatto, questo era, come dire, a parte il lato divertente della cosa, era la volontà proprio di entrare in comunicazione e di dirmi delle cose, sia su di loro, sia sul mondo degli insegnanti accanto a loro, sia sull'immaginario che normalmente viene rappresentato, cioè la domanda sul non mi faccio le, puoi dire che non mi faccio le canne, quel ragazzo me lo chiedeva perché aveva l'impressione, mi diceva, che loro venissero sempre rappresentati soltanto come dei debosciati, gente che passa il tempo a bere, farsi le canne, eccetera, eccetera, e lui dice, ma forse non siamo così, puoi dirlo per favore, perché gli avevo detto, usatemi come megafono, l'hanno presa in parola. Allora, Francesco e Annalisa, potete usare anche voi, noi oggi, come megafono? Per così mandare dei messaggi e, proprio come ci raccontava Andrea, no, cercare in qualche modo di cambiare quei cliché che spesso vengono appiccicati ai giovani d'oggi, a nostra volta sono stati appiccicati a noi quando eravamo giovani noi e via così. Io vorrei, proprio sulla scia anche della mail che abbiamo ricevuto dal papà, che voi ci raccontaste quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dell'essere studente di una scuola secondaria superiore in Italia in questo momento. In che cosa siete davvero diventati forti, competenti, e in che cosa invece, come rappresentanti del mondo degli studenti, vi sentite c'è ancora molto da fare? Allora, lasciamo scegliere ad Annalisa, perché a uno uno dei due diamo il compito di sottolineare i punti di forza e all'altro quello di debolezza. Tu sei la nostra studentessa e quindi a te il diritto di scelta, essendo una donna. Giusto, prima le donne. Insomma, dai, perché sennò guarda che Alberto ci scavalca. Annalisa, scegli, vuoi parlare dei punti di forza o dei punti di debolezza? Faccia le preferenze. Beh, facciamo la positiva, dai. Faccio i punti di forza. Ok. Allora. Francesco, ti toccano, preparati intanto sui punti di debolezza, è così. Annalisa, vai. Allora, innanzitutto volevo dire che non bisogna mai fare tutto di un'erba un fascio, perché è facile generalizzare, ma è molto sbagliato. Ci sono, vabbè, gli studenti che appunto corrispondono ai cliché che abbiamo oggi, però ci sono anche quegli studenti che sono in gamba, hanno voglia di fare e non, cioè, sono tutt'altro che descritti come vengono... che ne so, durante i telegiornali che vediamo, che ne so, le immagini su YouTube, così, non è la realtà scolastica, sono delle realtà isolate, non è tutta la scuola non è tutta così. Una cosa importante della scuola è che ho potuto imparare è che a scuola si può sbagliare, nel senso, se nella vita lavorativa, che ne so, si arriva 3 volte di seguito in ritardo si rischia il posto di lavoro, a scuola no, si ha sempre l'opportunità di ricominciare da capo. Puoi sbagliare una verifica, puoi prendere un bellissimo 2,5 o 3, però hai la possibilità di recuperare, quello è la cosa bella. E poi, stare in classe è importante, soprattutto trovarsi bene con i propri compagni. Fare proprio un gruppo si aiuta a non sentirsi soli. Tante volte capita che ci sono studenti che entrano in crisi, vanno in depressione, però avere un gruppo classe forte... ti aiuta tantissimo, perché non ci si sente soli, se tutti sulla stessa barca, se hanno tutti gli stessi problemi, ma ci si aiuta a vicenda. Dopo, si può dire, no, che ogni tanto qualche suggerimento nelle verifiche... quello, se no cosa si va a scuola a fare, se non per suggerire anche. Andrea, ti ritrovi un po' nella descrizione di Annalisa? Abbastanza simile, trovi un po' degli spunti? Che prendeva e passava i bigliettini... No, sì, mi ritrovo, mi coincide con i ragazzi con cui sono stato io, ma poi in generale, ed è questo che forse bisognerebbe sottolineare, un po' con la scuola e l'adolescenza come è sempre stata, perché oggi quando li si descrive, gli adolescenti di oggi, in un certo modo, sembra che siano dei marziani, no? Come se gli adolescenti non fossero stati esattamente così sempre. Poi, per carità, la realtà cambia, ci sono alcuni aspetti che naturalmente vengono fuori, alcune che chiamano criticità, che emergono rispetto ad altre, ma la scuola è sempre stata questa cosa, e la complicità, la condivisione di cui parlava Annalisa mi sembra effettivamente la cosa più importante. Siamo in un mondo che disgrega tutto, in cui tutti sono sempre molto soli, il fatto che si possa fare gruppo, stare insieme, questo credo sia il vero valore aggiunto della scuola. Ma noi sappiamo che non sono solo luci, ci sono anche le ombre. Francesco ce le racconterà. E allora, nel frattempo, intanto che Francesco riordina le idee, noi andiamo al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa oggi un libro molto interessante, si intitola Il libro della giungla di Geronimo Stilton. Per ricevere a casa questo libro dovete essere molto veloci, mandare un'email a esserebenessere@radio24.it con il titolo del libro, i vostri recapiti e il vostro numero di telefono. Naturalmente dovete essere il primo a raggiungere il nostro indirizzo di posta, per cui veloci veloci. In collaborazione con IBS.it. Questa casa non è un albergo. Francesco, è arrivato il tuo momento. Luci, le ha dette le luci della scuola, ce l'ha illustrate brillantemente Annalisa. E tu altrettanto brillantemente dovresti illustrarci invece le ombre. Quindi luce alle ombre. Vai, Francesco. Inizio. Ti senti un po' interrogato? Sì, abbastanza. La parte più difficile mi tocca. Vabbè, abbiamo dovuto fare così, dai. Tanto no. Comunque Andrea Baiani ti aiuta, perché è un ottimo suggeritore, vero Andrea? Sì, assolutamente, gli passo un bigliettino. Ecco. Ah, ok. Prima di tutto penso sia il rapporto, molte volte il rapporto con i professori, che è in alcuni casi soprattutto logora proprio la classe, nel senso che il rapporto dell'insegnante con la classe molte volte è difficile, e induce a comportamenti magari in classe che proprio possono essere le ombre della nostra scuola. Senti, e sai che questo appunto l'ho già sentito avendo anch'io delle figlie, insomma, che hanno più o meno la tua età. Ma quando un professore diventa un professore difficile, insomma, un professore che non vi aiuta? Quando probabilmente il professore deve anche svolgere a scuola le funzioni un po' del genitore, perché è un momento in cui i genitori non ci sono. E nonostante noi siamo alle superiori, comunque abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi, fra virgolette. Quindi quando il professore svolge solo la sua funzione senza guardare agli aspetti pedagogici della scuola, certe volte escono questi aspetti. Quindi al di là della severità, del carico di compiti, è proprio l'atteggiamento, un occhio particolare che deve avere il professore. Non solo dandovi le informazioni, pretendendo compiti, ma guardandovi proprio come persone. Secondo me sì. Però io trovo una cosa molto interessante quella che ha detto Francesco, cioè che appunto in un momento come questo di un po' di assenza dei genitori, gli insegnanti si trovano ad avere questo duplice ruolo, ingrato compito, perché comunque far la parte comunque di riprendere, di richiamare all'ordine, naturalmente crea tutta una serie di difficoltà proprio nel rapporto, come diceva Francesco, si rischiano di creare delle antipatie che non c'entrano niente col rapporto che dovrebbe avere un insegnante con uno studente. Alberto, chiedo anche il tuo aiuto. Noi tante volte abbiamo parlato di scuola anche con gli insegnanti. Ecco, che cosa potrebbe dire un insegnante all'ascolto? Ma io li ascolto spesso, gli insegnanti, quando si lamentano e dicono che effettivamente però nessuno li ha preparati a gestire la complessità di un gruppo classe, tra l'altro di una classe del 2008, del 2009, del 2007 o del 2010, cioè una classe dove ogni ragazzo davvero è un mondo a sé e messi tutti insieme fanno un mondo che per un adulto è spesso irriconoscibile. Non c'è più solo il salto generazionale, c'è proprio anche il salto di culture, il salto di strumenti, il salto di produzione di pensiero, perché quella del professore è spesso rimasta ancorata al libro scritto, al rapporto faccia a faccia, quello dei ragazzi, e invece dentro al mondo della tecnologia è spesso è fatto da una rete di contatti dove con l'instant messaging tu puoi scrivere, parlare, comunicare con 10 persone allo stesso tempo. Scusa, non pensi che anche per un insegnante sia difficile integrare e tenere in equilibrio il ruolo dell'insegnante con un ruolo, non voglio dire simile a quello del genitore, ma Francesco diceva appunto noi a scuola siamo senza genitori e quindi forse poi c'è bisogno veramente di una figura, di un adulto che in assenza magari di un contatto quotidiano con la famiglia che va sempre più perdendosi, di una figura o di una guida. Guarda, ti do proprio totalmente ragione, io credo che il mestiere di docente, di professore in questo momento sia uno dei mestieri più difficili del mondo, perché non basta mettere in gioco quello che sai, devi costantemente entrare in classe anche con quello che sei e che sai fare, quindi devi davvero tenere insieme dimensione professionale e dimensione umana giocata in un contesto che a volte è un po' un'arena, è proprio un po' come trovarsi di fronte a un mondo quasi selvaggio che è lì che ti vuole mettere alla prova e tu devi conquistarti la credibilità ogni giorno, ogni minuto in base a quello che fai e che sei. Francesco, a parte i professori, vedi che mi stavo confondendo anch'io, professori, quali sono gli aspetti ancora di fragilità, di debolezza? Probabilmente sono i rapporti fra noi studenti, perché molte volte manca quella che chiamiamo educazione fra pari e quindi magari quella correzione fra studente a studente che risulta molto più facile che una correzione fatta da un professore a uno studente. Andrea, anche questa volta Francesco ci ha dato un buono spunto. Quello che dicevate prima degli insegnanti è quanto mai vero, nel senso che poi l'insegnante vive un momento difficile perché vive anche un po' complessivamente un momento di delegittimazione sociale, nel senso che sono tanti, mi raccontavano sia insegnanti sia presidi negli ultimi anni, genitori che vanno a iperproteggere. Andrea, ti fermo perché ascoltiamo subito un estratto dal tuo libro a questo proposito e poi lo commentiamo insieme. Un genitore che va da un professore a dirgli che non capisce nulla, perché se solo capisse qualcosa suo figlio non avrebbe un'insufficienza. È un genitore che trasforma un professore in un deficiente. E a un genitore che pensa che se fa il professore è perché, poverino, non ha potuto fare altro. Nel corso degli ultimi anni, girando l'Italia in lungo e in largo, ho incontrato molti presidi e professori di diverse scuole superiori. Ogni volta che con loro ho pronunciato la parola genitori, hanno allargato le braccia con un'espressione di malcelato sconforto. E dopo aver specificato che, certo, ci sono delle eccezioni e che per fortuna non sono tutti così, mi hanno rovesciato sul tavolo un bottino di frasi ascoltate, recriminazioni urlate, richieste esposte. Non si è mai visto un insegnante fare la terza declinazione a novembre. Mio figlio ieri ha studiato tutto il giorno, è impossibile che abbia fatto scena muta. Lei ci costringe ad andare dalla concorrenza. Sentirà parlare di me, glielo garantisco. Non vedo perché non potrei chiamare mia figlia al telefono. È mia figlia, mica sua figlia. Mi faccia vedere il compito in classe? Casa nostra è sempre piena di inglesi. Mio figlio lo parla da quando ha 4 anni. Andrea, mi viene da ridere, però devo dire che anch'io ho bazzicato corridoi e sale di così ricevimento degli insegnanti e sono delle storie reali, no? Sembrano quasi esasperate, in realtà le senti. Sì, sono frasi assolutamente fedelmente trascritte dagli insegnanti che appunto metà ridevano e per l'altra metà erano tutti disperati, avevano gli occhi sgranati, perché dicevano, ma insomma... la fatica che facciamo noi, questo mi dicevano gli insegnanti, a stare dietro la cattedra è data anche dal fatto che dall'altra parte ci arriva in molti casi una delegittimazione totale, per cui dobbiamo recuperare delle posizioni. Annalisa, io vorrei sapere se tuttora gli studenti, quando hanno i genitori che vanno ai colloqui con i docenti, li aspettano poi a casa tutti un po' tremebondi in attesa del responso finale. Cioè... No, chiedono l'SMS, mandami un SMS, dimmi cosa si chiede ancora la mamma o il papà quando tornano a casa, dimmi subito com'è andata. Io addirittura sono più furba, ci vado assieme ai miei genitori, quindi... Veramente? Ma tu sei veramente avanti, è possibile fare questa cosa? Assolutamente sì, perché alla fine ai colloqui con i professori si parla del nostro rendimento, quindi c'è la possibilità degli studenti di poter partecipare, di poter assistere a quello che l'insegnante veramente dice al tuo genitore. Scusa, ma se il colloquio viene durante le ore di lezione, tu sei giustificata ad assentarti dall'ora di lezione per andare a sentire che cosa dice l'insegnante ai tuoi genitori? Questo non lo so. Io mando i miei genitori ai colloqui di pomeriggio, così sono sicura, controllo sia i professori che i genitori, non si sa mai. Bene, tutto sotto controllo, mi sembra un'ottima mossa. Se voi aveste un potere speciale, una bacchetta magica, far succedere una sola cosa per la nostra scuola, Andrea Baiani, cosa chiederesti? Andrea, accontentalo, perché Alberto è un po' un mago. Vorrei una scuola che fosse veramente pubblica, ma in senso stretto, cioè che contasse qualcosa nella formazione dei cittadini. Francesco. In qualità, mettiamola così, di rappresentante nella consulta, mi piacerebbe molto che questi ruoli di protagonismo degli studenti fossero valorizzati ancora di più. Francesco, grazie. E andiamo ad Annalisa. Beh, un sogno sarebbe quello che si cambiassero un po' le teste di tutti gli studenti, cioè avere gli studenti che non pensassero solo a sopravvivere a scuola, a tirare l'ultima ora, però proprio a vivere la scuola in maniera attiva. Allora, grazie ad Andrea Baiani, a Francesco, ad Annalisa. Suona la campanella, oggi è sabato, domani niente scuola, da lunedì si ricomincia. E Alberto, hai un desiderio? No, di ritrovarti sabato prossimo, ecco, con una nuova puntata. Allora, sarà esaudito l'appuntamento, quindi a sabato prossimo per una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Grazie per averci ascoltato. Buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.